Che giornata, che giornata. Sono distrutto, sono distrutto. Cameriere, portami il vino. Fatemi cantà, che non c'ho voglia di sta con sta gente che mi parla ma non dice niente. Fatemi cantà, che mi sento anche un po' innervosito da sta gente che mi chiede una foto. Io vorrei parlare di loro. Oh, oh, oh. Fatemi cantare. Sto impazzi appresso a troppe esigenze. C'ho bisogno l'appello di di che so assente. Fatemi cantare. Che ho lasciato al parcheggio, io che quasi me ci sento in colpa per aver avuto sto sporco successo, che amico sul palco e t'ammazza nel resto. Oh, fatemi cantare. Non so buono a inventarmi i discorsi, sbaglio i modi, i toni, anche i tempi. Parlo piano, manco me sentiresti. Fatemi cantare, che a ste cene con questi in cravatta parlo a gesti, non so la loro lingua. Fatemi cantare per quel tizio che non c'ha più il nome, sta per strada e elemosina ancora, per quel padre che se strigne l'occhi davanti a suo figlio per proteggergli i sogni. Oh, fatemi cantare per sti gatti che aspettano svegli un motore per starsene caldi, per i ricordi che mi spezzano il sonno e a letto mi fanno gira come un matto, un matto.